la macchina era dentro il molino. Dopo che nel 2003 avevamo deciso di vendere il molino, allora per un po' per orgoglio, un po' per passione, un po' per spirito di produrre energia pulita, l'ho levata dal molino e ho costruito questa piccola cabina e l'ho messa qua, perché prima era dentro il molino. Questa è l'acqua del Rio Cavallo, questa sarebbe acqua che attualmente la turbina avanza di troppo. Se mi aumento la potenza in turbina, l'entrata dell'acqua sulla turbina qua diminuisce. Questo sasso qua è il Madime papà che l'ha fatto a Farelo alla Vela di Trento, appena sopra la Vela, vicino a Cadine, che era una cava, perché la vecchia pila allora che c'era nel molino, quella a Martinetti, a Stantufo, la che si aveva rotta, e allora gli andai lassù e ce l'ha fatta fare.